Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento per questa settimana insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto da Francesco Galante, ma un saluto al nostro ospite telefonico che è Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Buongiorno Francesco e buongiorno agli ascoltatori. Allora Gianluca, con te parliamo di un argomento che credo insomma abbia interessato molti di noi, perché magari abbiamo sempre messo da parte dei soldi, no? Li abbiamo tenuti lì, poi c'è stata la famosa regola o legge che diceva che se avevamo dei libretti al portatore, se avevamo dei depositi che non venivano mai toccati, dopo un tot di tempo, esattamente credo 10 anni, questi vengono, come dire, assorbiti dallo Stato, no? E poi c'era anche il discorso del famoso passaggio lire-euro. Esatto, Francesco. Ci sono delle novità, perché ci sono stati dei casi con la Corte Costituzionale. Puoi spiegarci un po'? Sì, allora, qua stiamo parlando esclusivamente della conversione delle lire in euro, perché per quanto riguarda i libretti resta sempre un po' valida la vecchia normativa, insomma, che prevede la prescrizione dopo 10 anni. Quindi noi adesso, Francesco, parliamo di un argomento che in realtà è caldissimo, perché noi riceviamo da sempre costantemente telefonate di persone che hanno trovato la scatola in soffitta con le 200.000 lire, le 300.000 lire, oppure l'ascito del nonno ancora in lire, sì, eccetera. Veramente ne abbiamo tanti casi. E purtroppo per un certo periodo abbiamo sempre dovuto dire che niente, non c'era niente da fare, perché a partire dal 2011 non era più possibile cambiare le lire in euro. E invece, Francesco, c'è una grossa novità che è scaturita il 5 novembre scorso, perché la Corte Costituzionale ha dichiarato proprio illegittimo l'articolo che era stato introdotto a suo tempo dal governo Monti, con il quale praticamente si anticipava l'impossibilità di cambiare le lire in euro. Si anticipava in realtà al 7 dicembre invece che al 28 febbraio, quindi stiamo parlando di un paio di mesi. Però insomma la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo questa decisione che era stata presa a suo tempo dal governo Monti. Quindi una cosa particolare e importante, soprattutto in un periodo dove ormai non ci si fida più neanche delle banche, no? Allora uno torna al vecchio metodo, quello del materasso, e ci sono, ahimè, molti nonni, molte persone che magari non ci sono più, che hanno nascosto ben bene i loro risparmi senza magari dirlo poi ai figli e ai nipoti, e succede che si ritrovano queste cifre, magari anche certe volte importanti. Ed è uno spreco, un dolore enorme pensare di non poter rientrare in possesso di questa cifra cambiandola. Assolutamente. Tu dicevi giustamente, sembra una cosa un po' folcloristica. In realtà noi è vero che proprio abbiamo casi di persone che hanno la scatola di cartone con le lire dentro, appunto lasciate dal nonno. Comunque voglio sottolineare che una persona si è presentata da noi chiedendo se era possibile cambiare, se era ancora possibile cambiare una cifra che si aggirava attorno ai 40 milioni di lire, quindi stiamo parlando di cifre importanti. Quindi diciamo questa sentenza della Corte ha aperto una finestra, sì, entro la quale è ancora possibile cambiare le lire in euro. Proprio perché, guarda, è una cosa un po' tecnica, ma anche abbastanza semplice da spiegare. Cosa ha fatto il governo Monti? E invece che definire il termine della prescrizione come per legge al 28 febbraio 2012, l'ha anticipato al 7 dicembre 2011, quindi 2 mesi prima. Però può essere che in quel periodo più di qualcuno abbia chiesto appunto di poter cambiare le lire in euro, e teoricamente poteva farlo se non fosse intervenuto, sì, quel decreto, che poi è stato dichiarato illegittimo. Sono un po' dei tecnicismi, sì, però il concetto è lo stesso, è che allo stato delle cose, in questo frangente, è possibile ancora cambiare le vecchie lire in euro. Secondo i calcoli fatti dal nostro ufficio legale, questa possibilità scadrà il 28 gennaio del 2016, proprio facendo dei calcoli sulle... Abbiamo un mese per mettere a posto le cose, cercate nelle soffitte, svuotate le cantine, guardate sotto al letto. È assolutamente vero quello che dici, Francesco. Noi diciamo solo una cosa però, E non è che si possa prendere con la propria scatoletta, andare in banca, sì, e dire ecco cambiatemi le lire. E è necessario, ecco, forse qua possiamo intervenire noi, come può intervenire, insomma, possiamo intervenire le associazioni come la nostra, e è il caso, bisogna comunque che ogni posizione venga ben definita. Per cui è necessario che la banca sappia che, per esempio, il titolare di quelle, di quella cifra in lire, insomma, aveva fatto la richiesta nei tempi in cui poteva, ai tempi in cui poteva farla. Insomma, non è che si vada appunto là con la scatola e la banca li cambi, bisogna fare dei procedimenti per i quali ad esempio il nostro ufficio legale si mette ovviamente a disposizione. Quindi ecco, non è una cosa automatica, serve appunto la dimostrazione appunto del fatto che si ha diritto poi a cambiare questi soldi dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale. Ho capito, va bene, quindi chiediamo lumi all'Adico, associazione difesaconsumatori.it. Grazie a Gianluca Codognato, grazie, ci ritroveremo per un nuovo appuntamento con l'Adico lunedì prossimo. Grazie, grazie. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, associazione difesa consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.